controllo radio. Attenzione, chi chiama per un controllo radio? Sei in mezzo al QRM, sei bassissimo, pensavo che fossi molto più lontano, dai. Io ti ascolto, però basso basso. Attenzione, canale 10, allontanarsi dalla linea gialla. Fatemi un secondo. Vabbè, comunque, sì, io c'ho un amplificato, però non è un microfono normale, è un amplificato. Anche io sono liscio, sono con i watt dell'apparato, 4 watt, solo che ho il microfono amplificato, tutto lì. Va bene, dai, buona serata, ti sento basso, lo so chi tu sia, doppio room da questa parte. Ah, sceriffo, c'è Antonio. Ma Trinta, ti mettiti una bella antenna sul tetto, così ci sentiamo. Tanto da Porto Torres c'è Eugenio che modula, c'è Gavino, insomma ce ne sono che stanno modulando a Porto Torres. Ciao, ciao, ci sentiamo. Avanti, Torino. Ciao Gianni, ciao Antonio. Doppio whisky da questa parte. Cavane che secco che mi barincigia. Già va bene, fratelli, andate in pace. Così, così è, va bene. Andate in pace, datevi un segno con la mano. Bobo, mangiato hai? Ma cosa ho mangiato? Oia. Nuda già, ho mangiato poco, tortellini al uovo e prosciutto. Vabbè, quello che è sempre, dai. No, ma dico, stasera sei entrato adesso perché stavi pappando o facendoti la crema, stavi? No, veramente l'ho correccato. Mi sono da un film for West su Rai Movie, e c'è ancora. Era bello svegliato. Perché più tardi mo viene Monica e vuole spaghetti ai frutti di mare. E tu ubbidiente glieli fai. Poi domani mi uscito un tramacco, devo cambiare un rumetto a un medico. Bene. Che poi è quello dell'amico mio delle Puppi, ex cibi. Ma quello che fa paracadutista? Caffa. E metto, questa volta ti pago, non budiare se non ci vieni niente. Ascolta, io prezzo non posso farti, allora fa una cosa. Mi regala quello che vuoi tu, ok? Così sei contento tu, sono contento io. Caffa. Vabbè. Cosa le devi cambiare, rubine? Caffa. Il rubinetto è mio, però gli ho detto, ascolta, cosa c'è, il rubinetto è rotto, la manopra, che cosa? No, no, dice, se è rotto, c'è il pezzo che aggancia sotto, ma, scusa, ma comprate un rubinetto nuovo che vuoi dare da Bricomen? Ci si va da Bricomen, anziché per il rubinetto compriamo proprio la staffetta che mantiene sotto il rubinetto, invece spendere 20 euro ne spendi 2 euro. Domani prima te lo guardo a casa tua, se è quello o chi? Perché se hai spezzata la vite dentro, caro mio, non puoi farci niente. Vabbè, li cambi tutto il rubinetto. Se hai spezzata la vite, sì, come hai fatto? Se riesco a togliere, bene. Se no, lo devo vedere prima, capito? Come lo vedo, poi lo vedo. Vabbè. Già non è lavoro grosso, là. No, negativo. C'è poi mangi qua. Avanza. Roba buona, fatti fare a Ragosta. Un carissimo amico mi chiama spesso, molte volte ho detto, Remo, mi dispiace, ma molte volte che mi chiami sono incasinato, impegnato qua e là, e quindi non posso venire, quindi quando posso posso, domani posso, ok. Ah, sai che l'avvocato si è incazzata con me. Ah, vero? Figlio. E lì mi manda troppi messaggi, sempre la stessa cosa, mi ripete, scusi, se io gliela ripeto, perché lei non mi dà mai una cosa positiva, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, questo di cosa sono. Glielo dico, glielo scrivo, glielo dico, domando, e lei non mi risponde, se mi picchia lascia fare a me, alla fin fine ascolti, io non la tiro più. Adesso guardo, se entro l'altra settimana, non mi dà nessuna notizia, io faccio la revoca e la tolgo fuori. E metto in mano tutto a quelli che hanno le cose di cinti stradali, eccetera. Ma le devi pagare il lavoro che ha fatto sino adesso? Sì, la paga quando mi pagano l'assicurazione. No, ma io l'avrei lasciata fare, forse tu sei troppo veloce, vuoi fare tutto veloce, ma ci vogliono i suoi tempi a fare le cose tu lì. Anche tu devi capire che ci vogliono i suoi tempi. E loro se li prendono i tempi, con calma. Gianni chiuse la pratica il 16 dicembre, quindi quando è arrivato quel foglio, dopo quasi una settimana che ci siamo trovati per caso, mi ha detto, ah, mi dimenticavo, mi è arrivato un foglio di 400 euro, penso un po'. Quindi, i suoi tempi, cioè se non ha già buio io non gliela fatti nulla. Non ho capito a chi mi devo rivolgere, lui ha detto guarda se non lì non ci riesce a telefonare ma da una perché ci vado io la circolazione direttamente, è arrivato a questo punto, però io prima gli do le dimissioni, la mando via e quindi poi posso gestire tutto io, allora posso andare alla circolazione, poi vado direttamente alla Croce, Croce Veritaria che è molto bravo, alla fine sulla destra. L'ho fatto in onda. I tempi. E se gatto bevù. Sono già due mesi, sono passati, gennaio e febbraio è passato il burro. Ma loro sanno l'inghippito lì, magari facendo passare il tempo riesce a recuperare altra roba, capito? E poi che mi ha fatto più incazzare perché ha mandato quel foglio con la firma mia come acconto dei 425 euro. Certo avvocato, io glielo ho già avvisato. Prendiamo quelle 400, se no perdo anche le 400, perché se no mi chiedono una revisione, che cacchio di moto le do, e ma lei doveva vendere, io gliel'ho detto, lei me l'ha detto dopo che l'ho venduta, che gliel'ho detto io, cosa stai dicendo? E allora, se me lo diceva prima, allora era diverso, io non l'avrei venduto, quindi ho detto, metta soltanto che le accetta, se sono per i danni materiali mi va benissimo, perfetto, ok, li accetta. Per i danni fisici se ne parla più là, ok, va bene. Invece nulla, è da manda, a maghiti mi ne bloccano, e dici cosa vuoi? Un acconto, esito. Ha detto un acconto magari tra la moto e l'incidente, capito? Ma stai scherzando Gianni, che l'incidente se ne parla roba di 50.000 euro. Non sono così monari, no, l'assicurazione, cercavo sempre di tirare. Ma non esiste 400 euro, ma stai scherzando? Per i danni che ho subito per la moto, per la roba che ho comprato io anticipato, ambulanze, tutore, allora ci potrebbe arrivare, vedi? E tu non la puoi saltare adesso, non è che puoi andare all'assicurazione, perché se c'è l'avvocato di mezzo devi lasciar fare a lì, se no poi alla fine si incassa e ti molla. Non hai capito che io la posso mollare e poi col foglio che ho mollato ho fatto la disegna con lei, allora posso andare direttamente all'assicurazione, più non posso andare, se non mi dicono, noi parliamo solo col suo avvocato, hai capito? Quindi lo so già. E se ho messo tutto prete che auto, scusi, città stradali che c'è giù via l'Italia, che le conosco già, io non c'avevo il numero di telefono, poi mi sentivo male, ero all'ospedale, c'è, tutto 448, ho chiamato l'avvocato che conosceva e basta. A me, e Gianni, io a lei mi devo rivolgere, non c'è che lei si incazza, ma non ha fatto un cazzo. Non si compresa, a chi mi rivolge? A te. Ho un altro piccolo pallino che mi rivolge, a lei, che lei viene pagata da me, non ha compreso. Dico, ma si è fermata su questi cavoli soldi, la scuola non ti dà i soldi così. Ci sarà scritto l'oggetto, questi soldi cosa sono? Non mi dici nulla, non me l'hai detto, e mi rompe con le più le palle. Così gli hai detto. No, ma è quasi, l'avrà capito perché è incazzato, era alterato la voce quando mi ha telefonato. Vedi tu Tony, tu devi sempre bisticciare con tutti voi. No, a me fate scazzare, quando c'ho ragione, c'ho ragione. Cazzo non ci ho preso. Cioè, sei mio avvocato, che cacchio devo dire? Gesù Cristo devo dirlo. Ho già fatto la scuolazione, scusa, ma i 400 euro, cosa me ne sono chiuso? Se posso a me, le caramelle le ho già recuperato, le cingomi. A me va bene così, scusa. Non me lo dice, non me lo dice. E poi ha mandato il foglio come ha voluto lì, ma che mi dice a mezzo. Danni materiali, sì, gliel'ho già detto che va a finire che li perdo quei soldi, che si chiedono la controperizia, la moto non ce l'ho più. Io gli avevo detto di non vedere la moto, se lei me l'ha detto quando l'ho già veduto per una settimana, cosa stai dicendo? Marimbuco! Ciao Manuè! Ciao Chicomi, tutto a posto. Stasera mangiamo spaghetti alla puttanesca, se cioè non la scoglio di mare, se rimango la scoglionati. A Perfugas. Sì, a Perfugas. Comunque, troppo correme c'è mia. È perché non va bene. Esco, ci c'era un folluccio che ci cascherà. Ah, già, vabbè, io provo poi. E tu hai molto muro lascio cosa è molto. Sento. L'altro apparato con i due ballucci, quello vecchio. E a me due o tre ballucci rotondi, cioè, dai, come svita, come cosa. Boh, non lo so. Comunque, chi sta giocando con me perché se lo schiaffa tuato nel buco del culo? Non lo penso sia coglione, adesso mi fanno incazzare. Perché se continua, ma noi ti chiamo al telefono e ne faremo al telefono, ma lo tuo maracchino mi gente già le balle. Che cazzo ne so? Oh, mi, ma mi dice al culo, cazzo, boh. A oggi me ne ha avuto me. E se comincio a giocare a farmi la culo, anzi nascio. Ma io chiudo subito e parlo al telefono, mi non ho preso. Non voglio farlo sagomare, ma che ti guaccia. Ma avanti già. Non ti adirare, non ti adirare, sono lì. Ignorali, ignorali. Che è la cosa migliore. Perché Emanuele è basso, capito? Anche se la metà a te non ci va di nulla. C'è la provvita che ha la regola, tenito. Una comunque va bene, dai. Ci sentiamo le prossime, buonasera. Ciao Gabi, dimmi. No, no, niente, stavo dicendo che a Tonino che stavo provando a entrare io, però niente, non mi entrava il baracchino. Comunque Tonino, non ho bisogno di fare bene a nessuno. Dai, alle prossime, ciao. Ciao Gabi, io se ho preso le prove entro su un altro canale, centro del canale, cosa ne sapevo che eri tu? Ma ripeto, a me chiunque entra a disturbare, c'è una persona che è massa a massa, a me mi dà fastidio, così avresti fatto anche tu Gabino. Ma chiunque, se io avrei saputo che eri tu, certo non ho detto quelle parole, avrei detto quelle che non so scendere in radio, ma se non più con questo mi stavi spiegando qualcosa, tutto qua Gabi. E poi, io oggi me ne ho avuto, sono proprio... Tranquillamente, faccio un piccolo passo e poi detto, spiego il maracchino, buonanotte, telefono a Emanuele, non c'è problema. Non ho giù preso. Purtroppo, Gavino, mette le condizioni mie, ma tu parli, perché se eri tu parlando con un amico, con un antemino piccolino, arriva basso basso, c'è anche QRM, è uno tipo un abbortante, sembrava un abbortante, la verità, perché ogni volta che io rilascio a Emanuele, poi sentiamo questo disturbo qua, tutto qua. Se ne avrei saputo che eri tu, certo non avrei parlato così, ok? Vabbè, avanti già. Ehi, ma tu sei sempre arrabbiato, mamma mia. Tra poco, ga, se ne giù preso. Cosa ne so io chi non è? Vedi, perché sei stato anche tu già che non uscivi in radio, più o meno che segnale tu lo conosco. Oppure avrei detto chissà chi è questo qua. Poi se insisteva avrei parlato male pure a temi. E io non guardo nessuno in faccia. Cosa ne so chi è e chi non è? Quindi, se invece so che uno che sta provando nell'apparato è un conto che c'è male, chi deve dare, va bene, ok, tanto di scuse, ma ripeto, quando non so chi è, faria fatta puttana, io che ne dice a Emanuele, non si capiva nulla. E vabbè, no, poi al limite ho detto, se avrei continuato lo spegnevo al baracchino, mi interessa, se chiamavo al telefono Emanuele. E poi proprio tu già a parlare, ti sei anche tu arrabbiato da poco, me l'hai detto tu. Lo so, anche a me già mi frega. Visto là, e noi siamo tutti così, dai, ma chiunque, l'avrebbe fatto pure Camino, lo fa pure Emanuele, chi fosse, capito? Ma cioè, quando si fa un tranquillo così, eccetera, eccetera, e quindi, è naturale che ti viene. A volte te ne freghi le palle, e va a fa culo, boh, figlia, spegni tutto, buonanotte, e lo chiama al telefono. Ma siccome c'è ruota, c'è anche tu, cioè a me, a spegnere il maracchino, e lasciare Gianni così, cioè, chi fosse, nella ruota, mi darebbe fastidio, capito? Gabino, entra dai, che c'è stato un equivoco e basta tutto lì, avanti. Sì, Boccaccione e basta, sì, Boccaccione. Quella, ciao. Io non so che Boccaccione, poi non c'è stato un equivoco, Gianni. Io non sapendo chi è, sembrava fatto apposta ogni volta che chiamava Emanuele, che è masso, e questo, lui sta buscando male. Cosa ne so io che era Gabino? Se era Gabino non avrei imparato così, no, scusa. L'ho detto, lo ripeto, appunto, basta, non si deve offendere, Non devi dire parolacce, non devi dire parolacce, hai capito, bello bene. Io le posso dire le parolacce, anche quelle grasse grasse, poi le faccio dimagrire di colpo. Due parolacce, tu dici, se ti viene con il solo altro. Buonasera a tutti, corretti per me, ciao. Io è fatto un'entrata, non è uscito il mazzone, grazie. No, fate di voi, sì, ho già dato, l'ho già detto, vi ascolto volentieri, però se vi cazzate spengo la radio, ciao. Ma non siamo incazzati, siamo tranquilli, dai. Quindi se vi ascolto e saputo tutto quello che è successo, vabbè, ripeto, non è colpa mia. Chiunque si incazzerebbe, dai. Ok, perché anche già nota, da poco l'hanno fregato, si è incazzato, aspetta il baracchino. Ma Gianni conta c'era 10, Tonino, Gianni conta c'era 10, tu fatti sempre qua, come al solito, da 50 anni a questa parte, rilassati, se no è un casino, capito? Poche parolacce, sono purtroppo in questo periodo sono anche molti bambini all'ascolto, quindi bisogna essere un pochino più tranquilli. L'ho sentito Gianni che ha fatto, ma Gianni parolacce non esiste, tu poi ci batti subito. Forse perché faccio un po' di vita da eremita e quindi mi devo esplodere ogni tanto e mi scarico. Però era più bello scaricarmi di persona con certe persone che lo meritano. Okay. Vabbè, non me ne frega niente. È successo e chiedo, vabbè, scusa se si è offeso, Gavino, basta. E poi, ripeto, non è che ce l'avevo con lui assolutamente, non avrei parlato così, l'ho anche detto. Va bene signori e signori, vabbè comunque buco l'X Claudio. Io boh, c'è anche Emanuele in parcheggio. Emanuele ci sei. Ciao, ciao, saluta Emanuele che non lo sento, ciao ciao. Ok, Emanuele buco l'X. Avanti Gianni. Ciao Claudio, ciao. Gavino, io entra! Che non è se stesso. Ma la bordata ne ha dato un fifromazza, lo so di fifromazza. Cioè praticamente quando schiacciano questa portante a me mi arriva, mi si spegne la radio e mi si riaccende da sola. A me quando non mi arriva io mi sento col la portante. Ripeto Claudio, quando metto una portante che arriva anche a fantasma. Ti me la cosa è, spengo il maracchino e chiamo il telefono a Gianni. Come una volta c'è una portante e ti ho chiamato a te al telefono e poi ho chiamato a Gianni. Quando io devo dire qualcosa non si può dire al maracchino, ci si dice al telefono. Al telefono stai tranquillo che portante non te ne mettono. Grazie, ma questa è grande la portante. È grande, non so, voi forse non sapete dove sono io, ma io sono, da voi sono almeno, da te sono un po' più vicino, ma da Gianni sono abbastanza lontano, e a Gianni ho creato di tutto, tutto, manco il problema mi sento, va bene, detto ciò vi saluto, baci abbracci a tutti, divertitevi, arrivederci e buon viaggio, ciao ciao. E dillo a Brunilla va, ciao Claudio, ciao, ci sentiamo, va. Senti, a porta va, ti mando un cash, un problema chi c'è? Ciao Gianni, sono rientrato perché ero in bagno. Tonino, ma tu pensi che se io vado a che cosa non ha che numero video in radio? Eh? Ognuno di quello che dice deve avere la responsabilità delle proprie parole, delle proprie azioni. Ma tu pensi io vado per in Antonaringa? Eh? Ma tu pensi io avrò peso di basso a Taime? Ma allora tu ti stai offendendo che io ce l'avevo con te? No, io non mi sto offendendo, tu ce l'avevi con me. Tu devi avere in radio, no? Con qualsiasi persona sia, tu non ti puoi permettere di prendere e dire se stai una calcio in culo quando una persona, io ho provato nel 20, purtroppo sono entrato nel 10, e mi ha fatto lo stesso difetto. E tu a me, personalmente, la mia barata non ti puoi permettere di dirmi di prendere la faccia in culo, capito? Perché io sono capace di prendere, e farti rimangiare le parole che hai detto. Ma vedi, continua a avercela con me. Gavino, io non temo nessuno, ancora non hai capito, dato che stai prendendo questo tono, come ti permetti a dire a me, io a te non ti ho detto mai un cazzo, lo sai benissimo, a te non ti ho detto niente, se poi ti stai peccando è un altro paio di maniche, capito? Io non ho problemi con nessuno e non temo nessuno, per cortesia, ho già chiarito poco fa, c'è anche Gianni qua e anche se Claudio l'ascolto, ho detto, non sapevo che eri tu, se eri tu non parlavo in quel modo, mi ha trovato in un punto che sono scattato, boh, basta, ma non è che ti devi offendere se tu non ti devi permettere a dirmi a me queste cose, se arriverà un giorno che tu mi dirai qualche cosa che ci mi diciamo a Maracchino, io me lo permetto di dire certe parole, perché me lo devo permettere, non ho capito, sì. sia marocchino che anche persona. Io te lo ripeto, Gavì, ti rispetto come amico e basta, che se tu non lo rispetti come amico non me ne lo conoscete, ma basta. Io non ce l'ho con nessuno, ma ti ho fastidio perché ti ho rilanciato a mio figlioccio che era masso masso. No, non dite queste cose qua, cioè stai alzando il fuoco per niente, Gavino. Adesso stai parlando male tu. Abbiamo parlato in due. Io ho detto che qua non ti devi permettere di dirlo né a me e né a nessuno, perché ci sono io, ci sono persone anziane, ci sono donne all'ascolto e il capo te lo metti in culo, capito? E se c'è qualche problema, io dovrei cercarti, io problemi non ne ho, mi seguo e poi fa venire a chi vuoi. Faccio venire a chi vuoi, proprio io non ne ho. Tu sai benissimo dove abito io, guarda. Ti ripeto, a me se mi è uscita una parola, cioè chiedo scusa se ho persone anziane o bambini in ascolto, ma non l'ho fatto per malizia e coso, perché sono una persona anche educata quando voglio essere educato, con certe persone. Quindi stai continuando, ma ce l'hai con me? Io non ce l'ho con te, io non ce l'ho con te, non ce l'ho con nessuno. Però devi essere educato, perché cacci in culo, tu non puoi sollevare persone a palmi, capito? Hai capito? Tu non puoi giudicare persone a palmi. Quindi modera i termini in radio, per cortesia, perché sei educato, che non sei nella tua passione professionale. E poi se c'è qualcosa da dirmi, dimmelo, che ci vediamo in verticale, la risolviamo subito. E però non c'è neanche il... No, diciamo la famiglia, dai. E con questo, buon questo a tutti. Buon questo a tutti. E adesso capite perché la gente non entra in radio. Perché ci sono persone come me, dai, dillo. Non c'è problema. Comunque, Gavino, dico solo una cosa, se a te ti dà fastidio non ce l'ho con te. Se ti ha fastidio, se tu vuoi parlare con me, sai dove abito, non dico altro, sono sempre solo a casa mia, non li chiamo persone io, non preoccuparti. Io conosco me stesso. Se ho sbagliato in frequenza a dire qualche parolaccia, chiedo scusa, la prossima volta me ne guarderò molto bene per parlare male, perché non è da me parlare male. Perché in questo periodo più di una sto parlando tranquillamente e bene, non me ne frega niente nessuno, parolaccia non è detto, quella mi è scappato così e basta perché è incavolato, perché non ascoltavo mio figlioccio che era basso. Però stai rosso, sollevando a polvere per niente, mica lì. Io ripeto, non ce l'avevo con te e con nessuno. Mi ci è uscito così, ho chiesto scusa, lo basta, perché sono una persona anche umile, non sono un tipo strafottente che da che d'altro. Ripeto, conosco me stesso, il tipo che sono e cosa c'ho dietro le spalle, basta, cosa ho avuto e cosa posso fare, ecco perché parlo così. Non mi importa niente di nessuno, non devo dare niente, nessuno cammina a faccia alta, io non ce l'ho con nessuno, ho chiesto scusa, basta. Poi se non ti va a parlare a baracchino con me, non ci parlare, non ho problemi, ecco che non entra più nessuno a baracchino, perché se sono un tipo come me, non penso proprio. Molti amici parlano con me, capito? Ho capito. Comunque, se non ti va a parlare, fai come vuoi, io non ti obbligo. Se ti ritieni offeso, io ti chiedo scusa e basta. Boh, chiudiamola qua, perché per una baggianata stiamo arrivando a chissà dove. Vabbè, comunque, ho le spalle abbastanza larghe io. Con questo, stop, non posso dire altro. E non voglio dire altro perché non mi frega più niente. Per il baracchino non vengo ebriaio, ma... Vai, Donny, vai, finita. Vai, Donny, vai, finita, che tu hai detto che prendi a calci in culo a chi metteva questa cosa qua. E non ti devi permettere di dire che prendi a calci in culo. Ah, non ti devi permettere, perché non sei nessuno a prendere a calci in culo a nessuno, capito? Non sei nessuno. Quindi datti una calmata. Datti una grande calmata, perché calci in culo qua non volano, perché noi siamo tutti appassionati qua, hai compreso che non sei nessuno e non siamo nessuno e non sono nessuno, quindi per cortesia facci in culo, lasciali da una parte e dall'ospedale fai uscire prima la gente che c'è, per piacere te lo sto chiedendo, non parlare male in radio, che non sei nessuno e non sono nessuno e non siamo nessuno, quindi non... E nessuno ha detto che non entra in radio perché ci sei tu, ma perché chi sei? Per non entrare in radio perché ci sei tu. Chi sei? Chi sei? Quindi per cortesia, io te lo dico proprio, guarda, sinceramente, non ti permettere più e più, a parte il fatto che non sei professionale, perché non ti accorgi di quando ti mettono una forzante e di quando c'è una persona che vuole entrare e ha problemi, e quindi non sei professionale. Uno, capito? Hai capito? Segnati queste cose qua a me, di chi sei tu non me la frega un cazzo, perché come te ne ho visto mille ne ho visto, quindi per cortesia tieniti calmo, abitoni concreti e educati in radio, senza permetterti più di dire certe cose. E parli male anche tu adesso. Non mi frega un cazzo che tu hai adesso, vedi? Cazzo, dici a me non parlare male e poi parli tu. Cioè, capi, ma sei venuto tu qua in questo canale per dirmi cosa devo dire, cosa devo fare? No, capito. Ripeto, c'ho un bel brutto passato io, per cortesia, posso sempre ritornare nel mio passato, sono sempre sul chi va là, ho un carattere bruttissimo, mi auguro, io sono sempre dal cuore con tutti, tutti gli amici, eccetera, però non mi devono rompere scatole, basta. Ho sbagliato, lo ammetto, perché no, sono umile, ho sbagliato, ma non è il fatto... Non siamo nessuno, ho capito. Nessuno è nessuno. Ognuno si trova la persona giusta però. Punto, non dico altro. E se la vogliamo chiedere, cioè chiudere e finire, ebbene, se no sono già spedito il baracchino e chiamo al telefono a mio figlio. Perché se abbiamo un QSO tra me e te per alterarci, a me non vedrà più bene, mi sta dando già fastidio. Se la chiudiamo qua, ti ho chiesto scusa, non parlerò più male, così non c'è problema. Quando devo tirare a calci culo la persona, capì? Ci vado di persona, busto la porta e gli piglio a calci in culo, ti va bene? Faccio questo perché me lo posso permettere. Non basta, non sto dicendo altro, al baracchino non dico più niente. D'accordo? Ok, scusa Gavi. Poi, dimmi. Basta cazzo, basta. Oh, chiudi la bocca. Non sai con chi stai parlando, non conosci la persona. Basta cazzo, buon figlio. Ma io lo conosco perché è venuta qua e l'ho conosciuta, non basta. Ma io non ce l'ho con lui. Ma ripeto, Claudio, sta di nuovo sempre girando. Io non ho paura di nessuno, non ho rotto le balle a nessuno e basta. Ho sbagliato dicendo la parola, ho chiesto scusa e mi si continua a dire queste cose qua. Alla fin fine, Claudio, cosa vuoi fare? Lo sai dire, eh? Divento il tuo io di una volta, per cortesia. Ma non il baracchino, eh. Dai, finita, e boh, chiuso, finito, basta. E l'ho chiesto scusa tre volte, quattro volte, e che cazzo, boh, basta, dai. Non era diretto a lui dall'inizio. Se avessi saputo che cercherà lui, manco avrei parlato così. Boh, basta, mi dice uscito. E così, dovete condannarmi per una parola che ho detto. E che cavolo, che Cristo, dai. Ma tu non ti devi permettere di dirlo né a me né a nessuno, capito? Non te lo devi permettere. Di nuovo. Non ti devi permettere. Perché poi posso essere io, ma poi sei anche una persona, una figlia che dico di mani, da giudizio, non conoscerai tu. Non devi permettere. E tu lo sai cosa c'ho dietro le spalle io di tantissimo tempo fa. No, a me non mi lascia perdere tu in casa. Non vivo di radio. Mi segui. Ma sto parlando con toni talmente calmi. Che non ho problemi, guarda. Io ti faccio cantare, Tony. Io non ce l'ho né con te, né con Gianni, né con Claudio, né con nessuno. Io ti sto solo dicendo che tu devi capire che quando c'è un disturbo può essere che una persona sta entrando in radio e ha problemi. Ho fatto le prove sul 20. Era un apporto perché volevo entrare un superstar. Sono entrato col 10 e mi ha dato problemi. Quattro colpi importanti mi ha dato problemi. E adesso questo qua lo è andato a cinculo. Se tu c'hai i tuoi problemi, ti sbatti la testa al muro, capito? Hai compreso? Ti culo un capolo, ti impicchi. A me, se tu chiama tuo figlioccio, non me ne frega niente. Mi segui? A me non mi interessa niente. Tu devi prendere, devi stare tranquillo. Perché la gente può avere problemi in radio. Tutto qua, basta, finito. Riprendi. E capo, io dicevo questo, ho sbagliato nel senso perché ho capito dopo che io non potevo avere problemi di emissione della radio. Da oggi in poi conterò fino a 10, giustamente, perché ok che vuole entrare, non sta uscendo in radio, bla bla bla. È stata la mia impossibilità che ho reagito così, capì? Boh, basta. Ho chiesto scusa, boh. Vuol dire che la prossima volta non sbaglieremo più, ok? Perfetto. Allora, quando uno c'è i nervi, non entra in radio, si sbatte la testa al muro. Mi segui. perché tu mi dici che fa sasso a me, non mi interessa niente. Perché adesso è toccato a me e io sorvolo, non me ne frega niente. Secondo chi tocchi, sono cazzi amari. Anche se tocchi a me sono cazzi amari, però io ti lascio perdere perché tu puoi essere mio padre. Capito? Quindi stai tranquillo, Tony. Tranquillo e sereno, che la radio è bella, bisogna godersela. Non dire del tuo passato, di quello, di quell'altro, perché questi discorsi li sento da bambini. E non è una persona grande come può essere tu. Quindi stai tranquillo, non ti agitare, non ti agitare. Abbi pazienza, che la gente può avere problemi in radio. Problemi del tipo di connessione dei microfoni, volevo far sentire un microfono, però invece adesso niente, non si sente, non si sente. Capito? Le tue scuse non a me quando mi chiedono scusa è indifferente, non me ne frega proprio nulla. Però tu seguimi, che ci sono persone anziane. E bisogna rispettarle con l'educazione, perché se tu dici prendo a calci in culo una persona anziana, gli stai mancando il rispetto. Tu dici che sei rispettoso, queste cose qua, però non ti sei dimostrato rispettoso, quindi no, non funziona così. Poi, e poi c'è una cosa, guarda che non ti teme nessuno. Il primis io, tu non temi a me, però io non temo a te, quindi non ti preoccupare che le cose non sono come dici tu, e neanche come dico io. Le cose vanno sempre come devono andare. Comunque non c'è problema, ripeto, io sento quelle cazzate perché, ripeto, poi giustamente ho chiesto scusa perché smetto di parlare così, per la portante quello o quell'altro. Da oggi poi guardano meglio, perché le altre volte è capitato perché non stavo scendendo in radio, eccetera, eccetera. Oggi mi è uscito così, ho sbagliato. Quindi, va bene, non c'è problema, dai, chiudiamo il tiro, anche tra sopra, come non è successo niente. Perché io non ce l'ho con nessuno e tanto meno con te. Ripeto, se avessi saputo che tu stai facendo male, certo, non mi sei avvelito così. Punto. Ok? Sì, tutto quello che vuoi, perfetto, tutto quello che vuoi, scusa quello che vuoi. Però Tony, tu devi avere la cortezza, la gentilezza, che di quando la gente sta entrando in radio e ci sono problemi, non aggredirla. Buono. Poi c'è poco da prendere, chiamare figliucci, non figliucci, queste cose qua. Non attacca. Ma non attacca veramente. Tony, guarda, non attacca veramente. Perché quando tu hai detto figliucci vuol dire che stavi dicendo nei miei confronti. Quindi io ti parlo di me, non me ne voler male, però ti parlo di me. E qualsiasi persona ce l'ascolto, deve sapere che con me non c'è cosa che regga, non c'è fratello, cosa che tenga, capito? Quindi abbiate un po' di pazienza, perché i problemi in radio possono averli tutti. Con questo io prendo, questa sera chiudo che è meglio. Ci sentiamo prossimamente in condizioni migliori. Ok? Ciao Tonino, mi raccomando, non te la prendere.